Distungia cu Jesus jauna, alleluia. Suregandic sortus ana, alleluia. Iliobitic bistudata, alleluia. Serulur ne regina, alleluia, alleluia. Bistun jacu Jesus jauna, alleluia.